L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Buongiorno, abbiamo davvero pochi minuti in questa nostra prima parte, però sono sufficienti, mi bastano per riannodare i fili della settimana appena trascorsa, dei fatti e dei personaggi in primo piano da sabato scorso 8 maggio fino a ieri venerdì 14 maggio. Vi do solo qualche parola chiave che sarà al centro della nostra trasmissione, per esempio Diego Anemone, il costruttore coinvolto nell'inchiesta degli appalti dei grandi eventi. Naturalmente c'è la sua lista chilometrica, lunghissima, con centinaia di nomi dentro, alcuni sono sicuramente inconsapevoli e incolpevoli, in alcuni casi c'è addirittura il rischio di omonimia, però toccherà naturalmente ai magistrati stabilire dov'è la sostanza penale in quella lista e naturalmente a noi giornalisti spiegarla con la massima precisione. Poi con un ospite cercheremo di avventurarci nel mare tempestoso dell'economia, c'è tanta carne al fuoco in questa settimana, l'Unione Europea alle prese con le aggressioni anche dall'esterno alla nostra moneta unica, poi i casi Grecia, Spagna e naturalmente quello che è successo sul fronte italiano per quel che riguarda il PIL e naturalmente l'annuncio di una manovra correttiva. Poi sempre per restare all'estero parleremo del nuovo governo inglese realizzato in tempo record soltanto una settimana dopo il voto, eppure si parlava già di governo in bilico, di governo appeso, ma questa naturalmente è l'Inghilterra bellezza. E allora prima di chiudere questa nostra prima parte mandiamo il primo servizio della puntata odierna, è una sorta di copertina sulla politica italiana perché tra poco apriremo il fascicolo bollente di Scajola, Anemone e quant'altri, però insomma prima facciamo il punto sulla nuova crepa che si è aperta tra Fini e Berlusconi esattamente mercoledì, ce la spiega e ce la racconta Elisabetta Fiorito. Un tempo si chiamavano intermediari, poi arrivarono gli sherpa, adesso spuntano i pontieri, neologismo coniato proprio per la crisi tra Berlusconi e Fini nel PDL, ma comunque si chiamino, Gianfranco Fini si rifiuta di vederli. Il presidente della Camera annulla l'incontro con il coordinatore del partito Denis Verdini, almeno fino a quando, spiega ai suoi, non ci saranno risposte politiche ai problemi sollevati, ovvero la lotta alla corruzione e garanzie sulla riforma federalista. Dalla Camera dei Deputati, pochi metri più là, in via del Plebiscito, Berlusconi convoca i coordinatori a Palazzo Grazioli. Le questioni sollevate da Fini sono secondarie, almeno così l'etichetta. I problemi hanno portato ad un voto, l'abbiamo fatto e abbiamo risolto, spiega Berlusconi ai suoi. In ogni sistema democratico la maggioranza vince, ma è chiaro anche a lui che così è inutile vedersi, i tempi non sono ancora maturi. Il premier sarebbe quindi dispiaciuto per quella che ritiene un'occasione sprecata nei rapporti fra i due cofondatori del PDL e vorrebbe raggiungere un punto di equilibrio, ma evitare di incontrare Fini senza spiragli per un accordo. L'ottavo giorno. Io credo che non dobbiamo essere ipocriti perché in questi giorni un po' tutti, specie noi giornalisti, ci siamo messi lì a spulciare la lista di Diego Anemone, a vedere i nomi più o meno illustri che ne facevano parte. Sto parlando naturalmente del costruttore protagonista, forse il protagonista principale, il dominus di quella presunta cricca, di quel sistema gelatinoso come l'hanno definito i magistrati, che in questi ultimi anni ha gestito un numero davvero impressionante di appalti di grandi opere, si va dal G8 della Maddalena alla ricostruzione del terremoto in Abruzzo. Naturalmente ci sono più procure al lavoro, in particolare Perugia e Firenze, per un meccanismo che quindi va ben oltre comunque la casa con vista sul Colosseo costata il posto di ministro a Scajola. Sicuramente in tutto questo serve un po' d'ordine per distinguere quello che ha valenza penale e non penale, quello che ha un rilievo giornalistico e no. E allora per questo ho voluto accanto a me il collega della cronaca, spesso giudiziaria anche del Sole 24 Ore, ovvero Marco Ludovico. Buongiorno Marco. Buongiorno a te. Allora, prima di entrare nel merito delle questioni, ascoltiamo, proprio per riannodare un po' i fili della vicenda, il servizio di ieri mattina firmato da Raffaella Calandra. La sua segretaria gliel'aveva detto al telefono: dentro quel computer c'è questo mondo e quell'altro, riportarono le intercettazioni. Ed è un mondo popolatissimo, fatto di nomi, enti e sigle, quello che sta riemergendo dalla memoria di uno dei PC sequestrati a Diego Anemone. Un mondo composto di lavori nei palazzi delle istituzioni, come Viminale, Palazzo Chigi, Palazzo dei Congressi, Ministeri di Tesoro e Agricoltura, sede della Protezione Civile o di Forza Italia o di interventi nelle case di volti noti. E una pioggia di rettifiche, smentite e precisazioni arriva dai 350 nomi indicati nella lista. Nessun regalo, furono i servizi a decidere i lavori per ragioni di sicurezza, spiega il vicepresidente del CSM Mancino, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno. Alla voce capo PS compare Gianni De Gennaro, ora ai vertici dell'intelligence. Sorpreso, si dice Andrea Monorchio, già ragioniere dello Stato, che precisa di vivere in affitto, come ripetono in tanti uomini di enti come Rigio, Enac o mezzi busti dei TG come la Bonamici. Non ho case a Roma, taglia corto Silvestri, giudice della Consulta, e Nebbioso, capo gabinetto del Ministero della Giustizia, smentisce ogni rapporto con Anemone. Quelle opere di falegnameria sono state regolarmente pagate, replica Bertolaso, capo della Protezione Civile, che ieri ha incontrato anche il Premier. Non c'è dubbio che 350 nomi sono tantissimi, dimostrano che il giro d'affari di Anemone era piuttosto ampio. Però il punto è un altro e vorrei proprio risolverlo con Marco Ludovico. Come bisogna maneggiare una lista del genere quando ce la si trova in mano? E soprattutto che valore sta acquistando all'interno delle indagini di Firenze e Perugia? Maneggiare con molta cura. E l'uscita di questa lista viene considerata sicuramente una fuga di notizie che non ha fatto bene all'indagine in corso a Perugia. Anche perché in quella lista ci sono sicuramente lavori svolti in regola, ma ci sono anche lavori che riguardano persone già indagate per il G8, come il capo della Protezione Civile Bertolaso o i dirigenti dei lavori pubblici, anch'essi indagati, Mauro Della Giovanpaola e Fabio De Santis. Il lavoro degli inquirenti su questa lista è cominciato da poco e sarà molto faticoso, perché bisognerà distinguere caso per caso, controllare le fatture e i pagamenti. Sarà più faticoso ora che la notizia è di dominio pubblico? Naturalmente sì, anche perché le polemiche che si sono portate dietro la pubblicazione di questa lista naturalmente rendono l'inchiesta dei magistrati più complicati, anche perché l'inchiesta di Perugia deve innanzitutto ottenere i riscontri dell'ipotesi d'accusa, la corruzione, e non è sufficiente, come alcuni nomi presenti in lista hanno dichiarato, esibire una fattura. Dietro la fattura deve essere dimostrato il corretto pagamento. E questo è ancora da verificare. Ecco, naturalmente però, visto che parli di fuga di notizie, e se fuga c'è stata è arrivata dalla stessa procura, quindi sembra che si sia innescato una sorta di cortocircuito allora. O qualcuno voleva approfittare di questa pubblicità in più sui giornali della situazione. Io escludo che possa provenire dai PM questa fuga di notizie. Sarebbe stato contro il loro interesse, tant'è che esiste l'ipotesi di aprire proprio un'indagine per la fuga di notizie. È probabile che fuga ci sia stata, perché questa documentazione era a disposizione della Guardia di Finanza fin dal 2008 e non è facile tenere riservata una documentazione di questo genere per così tanto tempo. Tu hai appena ricordato che è già di diversi anni che questa lista è nelle mani di più persone, di più persone che stanno indagando naturalmente. Tra l'altro nella lista, oltre ai nomi, ci sono anche dei dettagli piuttosto singolari, che forse sono delle note di colore, però possono anche questi fornire un quadro della situazione. Per esempio si legge, non so, Palazzo Chigi Cucina, addirittura è uscito invece il nome, e questo mi ha letteralmente fatto saltare sulla sedia, il nome di Elisa Claps, la ragazza di Potenza, il cui corpo purtroppo è stato ritrovato dopo 17 anni in una sottoscala di una chiesa. Questi nomi, questi dettagli, che cosa aggiungono al quadro? La grande varietà di interventi di Anemone, il suo strapotere, oserei dire quasi assoluto, nelle commesse e degli appalti che ha potuto avere, quantomeno da amministrazioni come la Presidenza del Consiglio, in cui sono inclusi i servizi segreti, il Viminale e l'amministrazione carceraria, tutti i ministeri che da soli fanno girare decine se non centinaia di milioni di euro. E a questo si aggiungono, ed è il dato più inquietante, le ristrutturazioni private di soggetti che hanno dato appalti pubblici. Quindi la ricostruzione che fa la procura è che attraverso questa serie di lavori più o meno regolari, più o meno leciti, insomma, Anemone si ingraziasse un po' tutta una serie di persone dalle quali poi otteneva a sua volta lavori più importanti. Mi sembra questo che sia il meccanismo contorto e illecito a questo punto che la procura di Perugia rivendica nei confronti di Anemone. Diciamo che è un'ipotesi assolutamente plausibile, non sarebbe la prima volta che viene riscontrata anche in casi del passato. Un meccanismo che viene ripetuto regolarmente. A proposito di Anemone, in questi giorni abbiamo visto un succedersi di diverse notizie. Prima, giovedì esattamente, è uscita la notizia secondo la quale Anemone ha cominciato a collaborare con i magistrati, non a caso poi è uscito dal carcere poco tempo fa. Invece ieri poi è arrivata la smentita dei suoi legali, e a mio avviso però questo cambio di scena, questa apparente contraddizione delle notizie mi sembra più che faccia parte della pretattica o della tattica giudiziaria e legale. Concordo assolutamente sull'idea che si tratti di un atteggiamento tattico. C'è un fatto indiscutibile: Anemone è in libertà, Balducci, l'altro grande protagonista della cricca, è ancora in carcere. Se i magistrati hanno deciso per Anemone di rimetterlo in libertà, ci deve essere un motivo che non è semplicemente la decorrenza dei termini. Tra l'altro è libero anche Angelo Zampolini, che è l'architetto che materialmente, secondo l'accusa, avrebbe anche portato i famosi assegni per coprire, diciamo, l'ammanco di soldi per comprare varie case, tra cui quella dell'ex ministro Scajola, la famosa casa, l'appartamento con vista Colosseo. Su questo, tra l'altro, giovedì c'è stato un pittoresco sit-in sotto la casa appunto in questione, con una finta asta. La casa è costata comunque il ministero a Scajola, che mercoledì ha di fatto dichiarato guerra ai magistrati di Perugia, dove tra l'altro ieri avrebbe dovuto comparire. Sentiamo proprio su questo il servizio di Vincenzo Miglietta. Definisce la sede di Perugia incompetente, parla quindi di convocazione scorretta. Da qui la decisione di non presentarsi all'audizione del 14 maggio. L'ex ministro Claudio Scajola non sarà dunque il prossimo venerdì davanti ai PM del capoluogo umbro. Dopo le notizie sull'inchiesta apparse in questi giorni sui giornali, spiega Giorgio Perroni, legale dell'ex ministro, Scajola verrebbe sentito in una veste che parrebbe ormai solo formalmente, ma non già sostanzialmente, quella di persona informata sui fatti. Secondo l'avvocato, l'audizione avverrebbe quindi senza il rispetto delle garanzie difensive normativamente previste. Sotto accusa da parte di Scajola anche la competenza sull'inchiesta. Tra l'altro, a giorni il tribunale del riesame si esprimerà su Perugia o Roma. È slittata intanto l'udienza da parte dei PM umbri sul commissariamento di 6 imprese che fanno capo all'imprenditore Diego Anemone. L'indagine sulla cosiddetta cricca legata ai grandi eventi, e che vedrebbe coinvolto anche Incalza, funzionario al Ministero delle Infrastrutture, divide poi il mondo politico. È grave che Scajola non si presenti ai PM, dicono Partito Democratico e Italia dei Valori. L'ex ministro dimostrerà la sua innocenza, ribattono dal Popolo della Libertà. Di Pietro, che in questi casi mette sempre a frutto, non so se in modo positivo o negativo, la sua esperienza di magistrato, dice: se Scajola non va dai magistrati è perché di fatto è indagato. Ti aspettavi questa mossa dell'ex ministro? Ha una sua logica? In realtà ce l'aveva fin dal primo momento, perché dal punto di vista dei magistrati era interesse chiamare Scajola come testimone, mettendolo in qualche modo in un angolo, perché se Scajola confermasse quelle che sono state le evidenze, si tratterebbe di ammettere gli illeciti. Potrebbe rischiare, negando certe evidenze, di essere accusato di falsa testimonianza. Fin da subito gli addetti ai lavori hanno immaginato quella che poi è stata la scelta che giustamente il legale di Scajola gli ha suggerito, cioè di non presentarsi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due a disposizione, e vorrei sfruttarli su un aspetto che mi sembra forse il più interessante poi di qui in avanti della vicenda, cioè che l'inchiesta non ha certo definito ancora il suo perimetro, nel senso che ci sono forse filoni che stanno per nascere. Su alcuni giornali si insiste molto sul fatto che più di un politico stia tremando all'idea, insomma, che possa uscire fuori il suo nome. Tu, che le carte le maneggi, insomma, che hai anche contatti con le procure, che cosa ti senti di dire su questo aspetto? C'è una sensazione ancora più ampia su questo. Da una parte girano vorticosamente nomi di politici, anche ministri, che potrebbero aver acquistato case sotto costo o potrebbero essere implicati nelle varie inchieste, come quella di Firenze, ancora tutta in piedi, sulla scuola Marescialli dei Carabinieri. In realtà a Firenze si va a processo a breve, credo, no? A breve. E ricordo che è indagato uno dei 3 coordinatori del PDL, Denis Verdini. In realtà le notizie più martellanti arrivano non dalle procure ma dal Parlamento, perché si ipotizzano altri grossi filoni di inchieste che potrebbero riprendere o che potrebbero aprirsi, e che riguardano per esempio le stragi in Sicilia, piuttosto che altre indagini come quella Fastweb Telecom, che per il momento è sospesa ma che potrebbe rivelare clamorose sorprese in questi giorni. Beh, insomma, hai tracciato un quadro piuttosto preoccupante, preoccupato per Berlusconi, che però non ha soltanto questa grana con cui fare i conti. Io intanto ringrazio naturalmente Marco Ludovico per il contributo. Torneremo, perché secondo me, insomma, ci sarà da parlare ancora nelle prossime settimane. Grazie, grazie Marco. Grazie a te, Mina. L'ottavo giorno. Era da un po' di tempo che mancava come mio ospite qui all'ottavo giorno, quindi con grande calore do il benvenuto a Dino Pesole. Buongiorno Dino. Grazie, grazie Emiliano. Allora, io all'inizio di puntata ho parlato del mare tempestoso dell'economia europea e anche italiana, e quindi mi vorrei avvalere di un traghettatore esperto, quale tu sei, per descrivere un po' questi marosi nei quali ci stiamo muovendo, credo abbastanza a fatica. Io, prima di far sentire un po' di servizi della settimana, perché l'economia ha tenuto banco in lungo e in largo in questi giorni, vorrei partire da una premessa, vorrei farti una domanda che forse ha bisogno di una risposta un po' complessa, ma credo che sia doverosa per chi ci ascolta, sia utile per chi ci ascolta. Ormai nell'economia di oggi tutto si lega, tutto sta insieme, e così, insomma, stiamo vivendo in questi giorni passaggi cruciali e direi anche di passione, perché c'è la vicenda greca, che tra l'altro, insomma, dopo i morti, stiamo anche vedendo le bombe, quindi anche sul versante della cronaca c'è di che preoccuparsi. Nel frattempo c'è la quasi bancarotta spagnola, con delle misure straordinarie inanellate da Zapatero. L'Unione Europea, che una volta tanto batte un colpo e fa quadrato per difendere anche la moneta europea da aggressioni esterne. L'Italia che guarda i dati del PIL del primo trimestre e nel frattempo ci sono orizzonti di manovre correttive. Ecco, come si lega tutto questo? Cioè, come si passa dalla crisi greca alla situazione italiana? Ma si passa sostanzialmente facendo questa premessa. È chiaro, da quello che è avvenuto negli ultimi 10 giorni almeno, che l'appartenenza alla moneta unica comporta degli oneri, oltre che dei vantaggi, ovviamente. Allora, l'attacco alla Grecia... Vantaggi che di solito la gente comune non, esatto, non nota mai. L'attacco alla Grecia, in realtà si è capito subito, l'attacco della speculazione alla Grecia, in realtà è stato un attacco alla moneta unica. E dunque la reazione che è venuta dall'Unione Europea è stata a difesa della moneta unica, perché si è capito che se si fosse lasciato alla deriva il paese più debole dell'Unione Europea, che è la Grecia, che vale il 2% del PIL di tutta l'area dell'euro, l'impatto, le conseguenze sull'intera moneta unica sarebbero stati devastanti. Si lega in questo senso. Siamo tutti in una casa comune. Penso per esempio alle tante banche tedesche che in questi anni hanno investito in Grecia, certo, per esempio sulle Olimpiadi, quindi la crisi greca si sarebbe ripercossa sui tedeschi stessi, per esempio. Quindi la risposta dell'Unione Europea è stata opportuna ma tardiva, perché se fosse intervenuta 3 settimane fa probabilmente la situazione non sarebbe stata così grave. Comunque c'è un intervento di 750 miliardi di euro, che è una sorta di ombrello protettivo. Che non sono pochi. Sono molti, e soprattutto, questa è la novità più importante, per la prima volta da quando c'è la moneta unica, la Banca Centrale Europea è autorizzata ad acquistare titoli sul mercato secondario per far fronte a eventuali crisi di insolvenza o diciamo inizi di insolvenza di paesi dell'Unione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Banca Centrale Europea, che è l'unica struttura federale che noi abbiamo in Europa, non esistendo una politica economica comune, che dovrebbe fare un po' il paio con la Federal Reserve americana, esatto, sostanzialmente, interviene con una precisazione, però questo non è un finanziamento, come dire, surrettizio dei debiti pubblici. La Banca Centrale Europea interviene sul mercato secondario, vale a dire su quei titoli che già sono stati emessi, non li acquista direttamente dagli stati, perché questo sì sarebbe stato probabilmente una distorsione della mission della Banca Centrale. Ecco, tu hai già preannunciato una serie di punti che poi sono emersi in questo weekend, lo scorso, di grande lavoro senza sosta a Bruxelles. Alla fine si è arrivati ad un accordo. Riascoltiamo allora tutti i dettagli in cronaca con Maria Luisa Pezzari nel GR delle 7 di lunedì. Un maxi piano fino a 720 miliardi con la partecipazione dell'FMI per blindare la zona euro dagli attacchi della speculazione ed evitare il rischio default di altri paesi dopo il caso Grecia. A vararlo dopo 10 ore di negoziati sono stati i ministri finanziari dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles, chiesti anche nuovi sacrifici a Spagna e Portogallo, i due paesi considerati maggiormente a rischio in questa fase. Annunciate inoltre misure significative da parte della Banca Centrale Europea. Un piano di salvataggio senza precedenti a cui si è arrivati dopo una giornata in cui si sono susseguiti contatti tra le varie capitali europee, con decine di incontri bilaterali e due conference call a livello dei paesi del G7. Anche il presidente americano Barack Obama ha telefonato sia al presidente francese Nicolas Sarkozy che alla cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando la necessità di una risposta forte da parte dell'Europa per ridare fiducia ai mercati. Lo scudo anti-speculazione deciso dall'Ecofin mette in campo prestiti per 60 miliardi di euro da parte della Commissione europea. Ora la parola passa alle borse. Borse che in effetti lunedì hanno risposto brillantemente con una giornata da record, poi nella settimana l'andamento è stato più faticoso, anche ieri problemi, nel frattempo l'euro procede in maniera non esaltante nel cambio con il dollaro e intanto l'oro avanza verso invece dei record assoluti, dei record storici. Siamo sempre in compagnia di Dino Pesole del Sole 24 Ore e abbiamo già ampiamente parlato di questo piano che era obbligatorio, di questo accordo arrivato nella notte di domenica scorsa, però è solo la prima parte di un film che naturalmente prosegue nel prossimo weekend, anzi nella prossima settimana, perché c'è un altro Ecofin che sarà, credo, all'insegna del rigore, anzi del più rigore possibile. Beh, l'ha anticipato il commissario agli affari economici Olli Rehn, ma lo ha detto anche chiaramente il presidente della commissione Barroso. Cioè, adesso si è fatto un piano di intervento straordinario, ora bisogna che ci sia più coordinamento delle politiche economiche. E questo avverrà in primo luogo attraverso un irrigidimento in qualche modo dei parametri del patto di stabilità, che sono quell'insieme di regole che in qualche modo impongono ai paesi dell'euro di rispettare alcuni target prestabiliti per la finanza pubblica: il deficit al 3%, il debito verso il 60%, altrimenti la barca naufraga. Ecco, la barca europea. Intendo. Esattamente. Nel prossimo Ecofin e in quello successivo si metteranno a punto meglio le strategie dei governi per intensificare la disciplina di bilancio, e questo vuol dire grande rigore soprattutto nella gestione dei conti pubblici, quindi taglia la spesa corrente, attenzione a quello che accade all'interno del paese, che non ci possano essere, come dire, squilibri strutturali sui quali bisogna intervenire rapidamente. Il caso della Grecia, che ha messo su una manovra lacrime e sangue, lo sta facendo Zapatero in Francia, e l'Italia in Spagna, l'Italia lo farà con la manovra correttiva che il ministro Tremonti metterà a punto ai primi di giugno. Ecco, adesso ci arriviamo a questo, però prima volevo chiederti una cosa proprio sul patto di stabilità, perché secondo me si è innescato un meccanismo, non dico assurdo, però insomma bizzarro, perché fino a poco tempo fa c'era chi addirittura dava dello stupido al patto di stabilità perché inutilmente rigido. Adesso invece è la scialuppa di salvataggio alla quale tutti si vogliono aggrappare, quindi i tempi hanno cambiato anche un po' il modo di vedere Maastricht e il patto di stabilità. Sì, si è capito che il patto di stabilità deve essere affiancato da una disciplina di controllo intanto della veridicità dei conti, perché il fatto della Grecia è clamoroso. Cioè la Grecia Conti erano truccati. Ha truccato i conti, ha dichiarato un deficit del 6-7%, mentre in realtà era al 14%, quindi ha truccato i conti. Il problema però non è della Grecia, o non è solo della Grecia, è di chi doveva controllare se questi conti erano effettivamente in linea con quello che dichiaravano. Quindi ci si è resi conto che non basta più soltanto la procedura per deficit eccessivo che interviene dopo. Occorre prima vigilare sulla stabilità reale finanziaria dei singoli paesi. Sicuramente Tremonti si sta preparando a questo Ecofin tra pochi giorni, nel frattempo tiene sotto controllo, cerca di tenere sotto controllo la situazione italiana, che fa i conti con i conti, scusate il gioco di parole, del PIL del primo trimestre. I dati sono usciti mercoledì e ascoltiamo su questo il resoconto di Simone Spezia. Come nelle attese, il dato è positivo, forse anche migliore di quel che ci si attendeva. La crescita economica italiana nel primo trimestre dell'anno è stata dello 0,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2009, 9 e dello 0,6 rispetto ad un anno fa. Secondo l'Istat, la crescita acquisita, ossia quella che si avrebbe se i prossimi 9 mesi fossero completamente piatti sul fronte del PIL, è dello 0,6%, e le stime del governo per il 2010 di un 1% e quelle internazionali di uno 0,8 sembrano dunque a portata di mano. Ripresa comunque debole, secondo molti osservatori, eppure l'accelerazione tra gennaio e marzo rispetto al periodo ottobre-dicembre è stata più netta che nel resto d'Europa, che fa segnare una media dello 0,2%. Il nostro paese mette a segno la performance migliore, se si fa eccezione per Ungheria, Slovacchia e, dato forse sorprendente, per il Portogallo, cresciuto di un punto. Diversa la situazione rispetto ad un anno fa. Meglio dell'Italia fanno alcuni tra i paesi economicamente paragonabili, come Germania e Francia. Regno Unito e Spagna restano al palo. Il Portogallo cresce dell'1,7%. Ripresa, insomma, non irresistibile per l'Italia, ma stiamo meglio, anzi molto meglio di altri paesi. E allora, dopo questi dati comunque incoraggianti, anche se Marcegaglia ha invitato naturalmente a fare di più, veniamo a quello che potrà succedere di qui in avanti in Italia. In questi giorni Zapatero ha annunciato interventi shock, soprattutto da un governo socialista, l'ultimo che resiste in Europa, che va a attaccare punti nevralgici del welfare, perché Zapatero ha previsto tagli degli stipendi pubblici del 5%, abolizione dei bonus bebè, questo forse è un elemento anche simbolico molto importante, e blocco delle pensioni. Tutto questo potrebbe fare scuola in Italia, dove Tremonti ha annunciato una manovra correttiva imponente per i prossimi anni? In qualche modo sì, e non a caso la manovra che il ministro Tremonti si appresta a presentare in Parlamento, è previsto un anticipo ai primi di giugno, appunto prevede che buona parte di questo intervento, che sarà di 25 miliardi nel prossimo biennio, sarà quasi interamente concentrato sul fronte della spesa, che nonostante le manovre restrittive imposte nel 2008 è comunque cresciuta, e stiamo parlando della spesa corrente primaria, quella diciamo al netto degli interessi che paghiamo sul debito, che in un anno è cresciuta di 3 punti. Quindi si tratta di interrompere la dinamica della crescita e di ottenere, oltre a questo, dei risparmi. Per colpa di cosa è cresciuta di più? Beh, la crisi, obiettivamente l'impatto della crisi. In questo, gli ammortizzatori e altre iniziative del genere. In questo frangente Tremonti peraltro si trova a dover rispettare gli impegni che ha già assunto in sede europea, che prevedono che il deficit, che quest'anno sarà al 5% del PIL, scenda l'anno prossimo al 3,9% e nel 2012 al 2,7%, quindi dovremmo rientrare al di sotto del fatidico 3%, che è il tetto massimo. Per fare questo occorre però una manovra che non sarà semplice. Dove taglierà a questo punto? Dunque, si può ipotizzare, naturalmente. Le prime indiscrezioni parlano appunto di un'operazione che si concentrerà in prevalenza sulle spese dei ministeri, sul pubblico impiego. Si parla ad esempio della possibilità che anche quest'anno si possa rinviare la tornata contrattuale, che è il 2010-2012. È una partita che vale 5,3 miliardi, quindi non è poco. E ci saranno probabilmente anche delle misure di contenimento sul fronte della sanità. Quanto alle entrate, Tremonti sta immaginando di intensificare la lotta all'evasione fiscale, soprattutto internazionale, e da questo fronte ottenere anche un maggior gettito. Tu di noi hai detto sanità, giovedì sono affiorati i nodi di questo bubbone che pesa sulla nostra economia, sui nostri conti, perché 4 regioni, che sono Lazio, Campania, Molise e Calabria, credo tutte governate dal centrodestra dopo le ultime elezioni, hanno deficit troppo alti, quindi non potranno per legge usufruire dei FAS, dei fondi europei per le zone più arretrate, e dovranno per forza di cose alzare le tasse. Anche questa è una mannaia, insomma, che arriva soprattutto su quelle popolazioni. Peraltro ieri abbiamo visto a Napoli questa tragedia dell'infermiera morta perché non avevano gli stipendi, aveva inscenato una protesta plateale e purtroppo tragica, si era tolta per ogni giorno 150 millilitri di sangue. Come commentiamo questa crepa della sanità che è affiorata in questi sì, giorni? Sì, certamente la sanità è ancora una volta in cima ai problemi per quel che riguarda la finanza pubblica. Noi abbiamo 4 regioni che hanno già un'esposizione, diciamo, finanziaria di oltre 3 miliardi e dovranno rientrare. In realtà quello che ha deciso il Consiglio dei Ministri non è nient'altro che attivare il meccanismo previsto dal patto della salute, che è stato firmato agli inizi di dicembre dello scorso anno. Però è un avvertimento ancora, una sorta di warning, cioè si dice alle regioni: sta state a voi. Attenti. E in qualche modo potremmo immaginarlo questo come una prima prova generale di federalismo fiscale, perché poi in realtà il federalismo questo vuol dire, cioè corresponsabilizzazione dei centri di spesa a livello locale e poi appunto rendono conto ai cittadini esattamente di quello che fanno. E su questo tra l'altro ci sono state dichiarazioni non tanto federaliste, ma forse, se mi permettete la battuta, secessioniste di Zaia e Formigoni, governatori di regioni virtuose, che hanno detto chi rompe paga, riferito appunto alle regioni che hanno sforato. Grazie a Dino Pesole. L'ottavo giorno. Con grande piacere adesso posso parlare della Gran Bretagna. Io personalmente sono un grande ammiratore del sistema inglese, della politica britannica in generale, e lo sono ancora di più adesso, perché pensate, soltanto una settimana dopo il voto, le elezioni di appunto 7 giorni fa, è stato formato il nuovo governo, un governo di coalizione, una cosa un po' strana, un po' inedita per gli inglesi. Vedremo a questo punto se durerà, perché forse i più attenti ascoltatori si ricorderanno la settimana scorsa, nella puntata di sabato scorso, il corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, Leonardo Maisano, aveva pianificato così una durata piuttosto effimera di questo esecutivo. Lui ci ha detto chiaramente che tra un anno al massimo si andrà a votare. Naturalmente vedremo che cosa succederà. Intanto facciamo i conti con questo governo di coalizione che unisce Cameron e Clegg. In molti hanno anche notato una cosa singolare, perché entrambi sono poco più che quarantenni, insieme fanno 85-86 anni se non ricordo male, quindi più o meno l'età di Napolitano e una decina d'anni in più del nostro Berlusconi. Restiamo però ai fatti e alla cronaca. Giovedì, prima riunione del nuovo governo inglese, ce la racconta Giorgia Scaturro. L'economia al centro della prima riunione della nuova squadra del primo ministro David Cameron. E se per la coalizione Tory Lib Dem la grossa sfida è il deficit da record e di 6 miliardi di sterline di tagli alla spesa da approvare entro giugno, dal neo cancelliere George Osborne ecco la prima misura concreta: la riduzione dello stipendio dei ministri del 5%, che su 5 anni di governo garantirà 3 milioni di sterline. Anche il primo ministro Cameron si intascherà solo, si fa per dire, 142 mila sterline l'anno, 7.500 in meno del predecessore Gordon Brown. I ministri della nuova amministrazione di Cameron, tra cui 5 liberal-democratici, 18 conservatori, di cui 4 donne, hanno cominciato a lavorare con energia. Theresa May, la seconda donna ministro dell'interno nella storia britannica, eliminerà il progetto laburista delle carte d'identità e introdurrà un tetto annuale sull'immigrazione. Mentre William Hague, l'euroscettico ministro degli esteri, oggi si recherà a Washington, nella sua prima visita a Hillary Clinton, per discutere delle relazioni Gran Bretagna-Stati Uniti e le strategie in Afghanistan. Lib Dem e Tory hanno ormai rotto il ghiaccio e si preparano per il discorso della regina il prossimo 25 maggio. Domenica scorsa c'è invece stato un altro voto importante in Germania e ha pesato poi sulla Merkel, perché per lei si tratta di una cocente sconfitta. Tra l'altro questo voto ha condizionato nelle settimane precedenti l'atteggiamento del governo tedesco nei confronti della crisi greca. Evidentemente la prudenza della Merkel non le ha portato troppo bene, perché appunto il risultato per lei è stato piuttosto deludente. Sentiamo da Francoforte Beda Romano. È uno scossone politico quello subito dalla Germania domenica. Il Partito Democristiano ha perso 10 punti nel Nordrhein-Westfalia, la regione più popolosa e industrializzata del paese, e dovrà abbandonare la coalizione con i liberali, che da ieri non ha più una maggioranza. C'è ancora molta incertezza sul governo che potrà guidare il grande land occidentale del paese. È sicuro però che la sconfitta della CDU nel Nordrhein-Westfalia comporta la perdita della maggioranza al Bundesrat da parte del governo federale democristiano liberale, che sarà costretto a trovare compromessi con l'opposizione socialdemocratica. Per il cancelliere Angela Merkel governare a Berlino sarà probabilmente più difficile. Per i partner europei della Germania decifrare la futura politica tedesca, piena crisi finanziaria, potrebbe essere arduo. Non ci siamo dimenticati della marea nera al largo delle coste americane. Il petrolio purtroppo continua a sgorgare in superficie dal fondale marino. Ho visto delle immagini televisive davvero inquietanti, davvero sconcertanti. Sembra quasi una beffa per il presidente Obama, che aveva lanciato così la sua rivoluzione verde. Comunque per il futuro Barack Obama sembra correre ai ripari, infatti mercoledì ha annunciato delle novità sostanziali. Sentiamo Roberta Pellegatta. Una tassa supplementare di un centesimo a barile a carico delle compagnie petrolifere è la proposta che Barack Obama ha presentato al Congresso per far fronte al disastro del Golfo del Messico. Si calcola che il supplemento frutterebbe 118 milioni di dollari l'anno che confluirebbero nel fondo di responsabilità per danni ambientali attualmente utilizzato per arginare la Marea Nera. Nella proposta il governo chiede un ulteriore aumento della tassa di un altro centesimo a partire dal 2017 e l'innalzamento del tetto per gli indennizi a 1,5 miliardi di dollari. Nel frattempo, dopo l'affondamento della piattaforma il 20 aprile scorso, il greggio continua a fuoriuscire dalla falla al ritmo di 750.000 litri al giorno. La British Petroleum, la società responsabile del pozzo, dopo il primo fallimento sta tentando con una seconda cupola, più piccola della precedente, che dovrebbe incappucciare la falla. Secondo i tecnici, e facendo i dovuti scongiuri, i robot dovrebbero riuscire a posizionarla entro oggi. Abbiamo il tempo per un altro paio di servizi che riguardano invece fatti di casa nostra. Cominciamo da una storia, da una bruttissima storia, quella inquietante anche per una persona come me, che insomma figlio di militari, che ha sempre avuto rispetto per la divisa, è quella di Stefano Gugliotta, il ragazzo pestato dai poliziotti dopo Roma-Inter finale di Coppa Italia della settimana scorsa. Il ragazzo ha trascorso una settimana in carcere che credo non dimenticherà mai. Un video però per fortuna sua ha incastrato i poliziotti. La polizia, il questore in particolare, ha chiesto scusa a Gugliotta e aggiungo io, ci mancherebbe altro. E nel frattempo Gugliotta è tornato libero giovedì. Il servizio è firmato da Maria Chiara Grandis. Io cercavo di urlare, cioè la voce mia era più alta di tutto quello che mi dicevano loro. Sono pieno di divi, sono pieno. Un pestaggio che il giudice ha definito atto arbitrario, quello subito da Stefano Gugliotta il 5 maggio scorso, quando dopo la finale di Coppa Italia viene arrestato dalla polizia fuori dallo stadio olimpico. La gente che lo ha colpito con un pugno al volto, rompendogli un dente, è indagato per lesioni volontarie. Mi ha intimato l'alto, io mi sono fermato e mi ha colpito, basta. Non ho reagito, io con la mano cercavo solo di allontanarlo. La distanza, insomma. Per Stefano resta l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ma cade l'ipotesi di aver partecipato ai disordini dopo la partita Roma-Inter. Stefano ha il viso gonfio, quando parla le mani tremano. Ha 25 anni e ora vuole solo dimenticare. È difficile, però insomma, piano piano riprendere la vita quotidiana tutti i giorni. E mentre alla famiglia sono arrivate le scuse del questore della capitale, la procura vuole verificare anche la posizione di altri agenti. Chiudiamo con il Festival di Cannes, forse il festival più bello e più importante per il cinema nel mondo. Al momento in Italia il film di cui si chiacchiera di più è quello di Sabina Guzzanti, che ripercorre le tristi vicende del terremoto dell'Aquila. In Francia è stato visto giovedì, non lo ha visto il nostro ministro dei beni culturali Bondi. Il racconto proprio dalla Croisette è firmato da Cristina Batocletti. È la giornata di Oliver Stone oggi con il suo Wall Street Money Never Sleeps, proiettato fuori concorso alla 63esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Non è un sequel, tiene a precisare il regista, anche se il titolo è lo stesso di quello che girò più di 20 anni fa, il protagonista Michael Douglas pure. Intanto ieri è stata una giornata di polemica tutta italiana. Il ministro della cultura Bondi ha mandato i migliori auguri alla nostra vita di Daniele Lucchetti in concorso e le 4 volte di Michelangelo Frammartino nella Kenzen. Ha omesso volontariamente ogni riferimento a Dracula di Sabina Guzzanti. Il documentario sulla ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo nel 2009, proiettato ieri fuori concorso alla Kermesse francese. Proprio in segno di protesta per l'inclusione di Dracula tra i titoli della rassegna, Bondi sabato scorso aveva declinato l'invito a presentarsi sulla Croisette. Nessuno l'aveva invitato ufficialmente, ha puntualizzato Guzzanti da Cannes, e del film ha visto solo qualche spezzone proiettato da Santoro. Pronta la risposta del ministro nel ping pong a distanza tra Roma e Cannes. L'ho visto, non parlo di cose che non ho visto. E siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi. Vi ricordo soltanto la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo, come sempre poco dopo le 9. Per il resto della settimana siamo sul nostro sito www.radio24.it.